si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare. Torniamo in diretta, Radio 24 torna in diretta al weekend, il sabato mattina dalle 7.30 alle 10, domani mattina, la domenica dalle 8.30 sempre fino alle 10, dopo una pausa di due weekend, insomma weekend festivi nei quali non siamo andati in onda in diretta. Eccoci qua di nuovo, rientriamo come sempre. 349-238-6666 se volete scriverci sms o su WhatsApp. La pagina Facebook, ve la ricordo, anno nuovo, pagina Facebook vecchia, Si può fare trattino Radio 24. L'account di Twitter è chiocciola Si può fare 24 per questo programma. Il mio account è chiocciola Ale Maurizi. Dopo il GR delle 8 sarà con noi Carlo Gabardini, sempre a caccia di buone pratiche, di buone notizie quando possibile. Adesso invece partiamo con una veloce rassegna stampa, un'occhiata alle pagine del giornale di oggi. Vai! E allora, giornali di oggi occupati dal naturalmente dalla cronaca, che però è più aggiornata, quella che avete sentito nei giornali radio, ma anche insomma nelle ultime ore ascoltando radio, TV e guardando magari anche sugli smartphone, per quanto riguarda l'attacco al resort in Egitto a Hurghada. Poi insomma notizie per quanto riguarda anche il fronte politico interno, sul dietro fronte del governo sull'abolizione, eliminazione del reato, questa sanzione amministrativa del reato di clandestinità introdotto qualche anno fa da governi di centrodestra, ministro Maroni, ministro dell'interno, allora, e poi naturalmente insomma sviluppi per quanto riguarda l'inchiesta su quello che è accaduto la notte di San Silvestro a Colonia, ma anche altre notizie. Cominciamo proprio con il Corriere della Sera. Colonia, arresti e dimissioni. Lo sapete, si è fatto da parte il capo della polizia locale, di Colonia. Vediamo uno degli approfondimenti che sono sui giornali di oggi, è questo: inviti e appuntamenti organizzati su WhatsApp. Così è partito il raduno, il ritrovo di Capodanno. A questo punto viene giudicato dagli inquirenti pianificato, sicuramente pianificato, però non è detto che questa pianificazione fosse mirata poi alle molestie. Può darsi che la cosa non sia collegata. Perché? Leggiamo. Perché Elena Tebano da Colonia riporta l'intervista ad un assistente sociale, un signore che si chiama Marco Camols, che dice questo: due dei ragazzi che seguo avevano ricevuto un invito a trovarsi alla stazione di Colonia tramite il passaparola sui cellulari. Il ritrovo alla stazione dunque era pianificato, ma questo non significa che le persone fossero lì per compiere molestie o borseggi. Molti di questi giovani immigrati sono in Germania da soli, senza famiglia, e insomma cercano anche di spassarsela, di passare il tempo. Poi se quello che è accaduto lo sapete tutti naturalmente, quindi diciamo è facile dedurre che spassarsela in quel modo sia una cosa terribile. Quello però che gli inquirenti stanno mettendo a fuoco è questo, cioè la presenza massiccia di persone, di stranieri in quella piazza, magari qualcuno di loro malintenzionato, sicuramente non è stato un fatto casuale. C'è stato un raduno organizzato sui social network. Che poi ci fosse dietro la volontà di compiere delle molestie o degli atti di violenza, diciamo che facesse parte di questa pianificazione, questo è ancora da capire. Quello che hanno sospettato fino a poco tempo fa gli inquirenti, adesso però non c'è ancora diciamo una chiarezza su questo per quanto riguarda le indagini. Invece sul fronte, saltiamo di palo in frasca, stiamo sempre sulla cronaca. E Per quanto riguarda Banca Etruria, il dossier ieri inviato da Banca Italia agli stessi vertici di Banca Etruria, il dossier, l'inchiesta, hanno svuotato così Banca Etruria, le accuse agli ex vertici, Fiorella Sarzanini, che spiega la quantificazione delle nuove sanzioni si conoscerà entro 2 mesi, ma l'atto di incolpazione di Banca Italia contro i vertici del Consiglio di Amministrazione di Banca Etruria e 5 componenti dell'organismo fa ben comprendere quali siano le carenze nel governo, gestione e controllo dei rischi connessi alla situazione patrimoniale che hanno portato la banca all'insolvenza. Si chiamano in causa direttamente l'ex presidente Rosi, i 2 ex vicepresidenti che sono Berni e Boschi, il padre del ministro. Tutti accusati insieme ad altri membri del CDA, tutti accusati dalla Banca d'Italia di inerzia nell'attivare inadeguate, questo è un virgolettato, adeguate misure correttive per risanare la gestione, provocando un ulteriore peggioramento della situazione. In pratica, traducendo in parole povere, hanno provocato sprechi facendo crediti di favore e consulenze inutili e pagandosi degli stipendi altissimi, hanno svuotato la banca indebitandola e portandola in una situazione di insolvenza. Perdite per 517 milioni di euro, le perdite di esercizio causate da sprechi, abusi, atti omissivi. Un'enorme massa di denaro, scrive ancora la Sarzanini sul Corriere della Sera, persa, un'enorme massa di denaro persa, concedendo finanziamenti anche a chi non forniva adeguate garanzie, firmando contratti di consulenza per incarichi inutili. La storia è vecchia, venivano concessi crediti agli amici degli amici senza preoccuparsi che ci fossero le basi solide finanziarie da parte di queste imprese o presunti imprenditori o insomma anche semplicemente appunto amici degli amici, soldi proprio dati così persi e buttati via. Poi c'è il mancato rispetto della delibera sulla riduzione degli emolumenti, cioè gli stipendi delle banche, dei manager delle banche devono rispettare certi criteri, c'è una delibera sempre della Banca d'Italia e insomma la Banca d'Etruria non veniva rispettata, si vede, erano così bravi a gestire la banca che si meritavano dei bonus in più. L'intervista a fianco al sottosegretario De Vincenti, che dà notizie per quanto riguarda il tema dei risarcimenti. Ci sono un sacco di risparmiatori incavolati, imbufaliti, alcuni, il governo l'ha già detto, verranno rimborsati, quelli che sono stati mal informati dalla banca, mal consigliati negli investimenti di quelle obbligazioni, altri che hanno investito, diciamo, i loro risparmi in maniera incauta, ma sapendo il rischio che correvano, quelli probabilmente non beccheranno granché, quello è bene dirlo, ricordarlo, perché poi saranno imbufaliti anche loro, perché visto appunto l'altro lato della vicenda, cioè l'inchiesta sugli sprechi di questa banca che poi ha portato a fare questi investimenti spericolati per cercare di tappare il buco, ma il buco poi è diventato una voragine. Allora, dicevamo, un'intervista a De Vincenti che annuncia risarcimenti totali, ipotesi da non escludere, però non c'è nessuna conferma. Leggiamo, dice, sarà possibile in alcuni casi un rimborso totale, cioè per quei risparmiatori appunto che sono stati proprio letteralmente fregati dalla banca. In linea di principio l'ipotesi non è da escludere, dice De Vincenti. Per il momento si sta ragionando però sui principi che porteranno a fissare criteri precisi. Siamo ancora ai principi, quindi siamo ancora un po' sul vago. Quali saranno questi principi? La domanda. Il primo è che non sia stata fornita al risparmiatore una informazione adeguata su quel tipo di investimenti. Siamo alle solite, è già stato detto diverse volte dal governo, conterà che tipo di profilo di risparmiatore queste persone avevano, diciamo, sottoscritto. Se erano profili a basso rischio, allora sicuramente non è stata fornita, diciamo, l'informazione giusta. Se invece erano profili di investitori, diciamo, più speculativi, allora si attaccheranno. Questa, diciamo, è la traduzione mia personale, ma insomma, secondo criterio del sottosegretario De Vincenti per questi rimborsi è: saranno privilegiate le posizioni più fragili, considerando sia il tipo di investimento sia il profilo generale del risparmiatore, cioè probabilmente anche il reddito del risparmiatore. Per i rimborsi ci sono al momento 100 milioni di euro, sono pochi, ne arriveranno altri? Non è da escludere, ma vedremo più avanti. E questo è lo stato dell'arte per quanto riguarda Banca Etruria, che è il titolo anche di altri giornali. Naturalmente se ne parla per esempio in prima pagina anche della Stampa. Ecco gli illeciti di Banca Etruria, nelle carte di Banca Italia le violazioni di manager e consiglieri che hanno affondato letteralmente l'istituto. Perquisizioni in 15 società ieri, l'indagine della Procura di Arezzo punta ai prestiti concessi in conflitto di interessi, società che erano in qualche modo riconducibili a membri della banca, che quindi diciamo con una mano stavano dentro la banca e concedevano prestiti, con l'altra stavano fuori della banca in altre società e prendevano questi prestiti, letteralmente appunto svuotando la banca. Sono le accuse della Banca d'Italia, però non è che stiamo diciamo parlando così a vanvera, è il dossier della Banca d'Italia. E poi c'è l'inchiesta della Procura di Arezzo che ha portato ieri a quelle perquisizioni, quindi accuse da dimostrare naturalmente ancora. Allora, per quanto riguarda invece, leggiamo qualche altro titolo di giornale. Repubblica, dietro fronte sui clandestini resterà il reato, questo è l'altro argomento grosso. Alfano frena il governo, scelta inopportuna, Renzi pensa ad una nuova legge ad hoc. Insomma, ieri Alfano ha detto è una scelta inopportuna, in questo momento si rischia di mandare un messaggio sbagliato ai cittadini di insicurezza abolendo il reato di clandestinità, che però lo stesso Alfano ha detto che verrà riformato, perché parola del procuratore nazionale antimafia Roberti addirittura servirebbe ad ostacolare le indagini, insomma sarebbe un po' d'intralcio, una sanzione amministrativa che non serve a granché, però Alfano ha detto così, ha detto in questo momento non lo aboliamo perché manderebbe un messaggio sbagliato alle persone, è un po' come dire il reato di clandestinità non serve a un tubo, però lo teniamo lì perché così vi sentite più sicuri, ma non siete più sicuri, insomma è un modo di essere un po' trattati da bambini, no? Ma non è una novità, la politica fa così con i suoi elettori d'altra parte. Però intanto vediamo l'intervista all'ex ministro Maroni, sì, su questo, perché ieri Maroni ha usato parole forti, ha detto prepariamoci all'invasione, cioè se viene abolito il reato di clandestinità ci dobbiamo preparare all'invasione, perché si manda un messaggio non solo, come dice Alfano, ai cittadini, un messaggio di insicurezza, ma si manda un messaggio anche agli scafisti, venite, porte aperte. Allora, l'intervista è questa. Presidente Maroni, finora non si può dire che questa misura sia stata molto efficace, perché gli sbarchi non sono diminuiti. Non è vero, è una cosa simbolica e i simboli contano, dice Maroni. È una misura efficace se viene applicata. Invece finora è stata contrastata anche dal sistema giudiziario per motivi ideologici. Cioè, la tesi di Maroni è che il reato di clandestinità in sé è servito a poco, ma non per colpa di come era stato congegnato questo reato, ma perché i stessi magistrati, diciamo, non vogliono applicarlo, non lo applicano correttamente, non sono interessati per questioni ideologiche ad applicarlo. Ricordiamo cosa prevede, il pacchetto sicurezza introdotto nel 2009, quando era appunto ministro Maroni, e prevedeva questo: essere punito con un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro è l'ingresso e il soggiorno illegale, quindi vale anche nel territorio italiano, quindi vale anche per lo straniero che pur entrato in Italia legalmente poi si ritrova con il permesso di soggiorno scaduto e quindi diciamo rientrando in questa casistica di immigrazione clandestina deve pagare un'ammenda da 5 a 10.000 euro. Torniamo a Maroni, che appunto accusa il sistema giudiziario di non applicare questo reato in maniera efficace. Molti magistrati, la domanda è questa, sostengono però che è proprio questo reato a impedire di rompere l'omertà degli scafisti. Non è vero, il reato fu introdotto nel 2009 proprio per mandare un segnale agli scafisti, per avvisarli che in Italia ci sarebbe stato un giro di vite, e dall'altro per facilitare le espulsioni. Però il fenomeno dei barconi non si è fermato, domanda, risponde Maroni. Fino alla primavera araba del 2011 non ci sono stati flussi significativi, dal maggio del 2009 al dicembre 2013 addirittura sono stati insignificanti i flussi di immigrati, grazie al reato di clandestinità. Poi, non è che se si abolisce il reato di furto o di stupro questi reati spariscono, se continuano ad esistere vuol dire che sono un deterrente, il reato serve ma non basta. Un'ultima risposta. Cosa serve allora? Vanno rafforzate le misure di prevenzione, dice Maroni. Io che da ministro dell'interno ho girato molti paesi africani, più dell'attuale ministro, Alfano, dico che la convinzione che mi hanno dato le persone che ho incontrato è che le organizzazioni criminali che trasportano i clandestini sono molto informate su ciò che accade nei vari paesi. Se si abolisse il reato di clandestinità sarebbe come lanciare il segnale: venite tutti in Italia. Insomma, Maroni resta convinto di questo. Ci fermiamo per una pausa sul traffico, torniamo tra un attimo. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua, di nuovo buongiorno ad Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, insieme stiamo dando un'occhiata ai giornali di oggi, una veloce rassegna stampa che ci accompagnerà fino al giornale radio delle 8. Allora, sempre sulla questione del reato di clandestinità, il titolo di Libero: kamikaze al governo, clandestini in casa nostra, mentre tutta Europa innalza i muri e chiude le frontiere, noi aboliamo il reato di immigrazione illegale. Anche se sapete che poi questa abolizione non c'è stata, perché il governo per ora ha fatto marcia indietro. Cosa farà il governo su questo benedetto reato di immigrazione clandestina? Ecco l'intervista al responsabile della giustizia del Partito Democratico, che dovrebbe essere informato in quanto partito di maggioranza su quello che farà il governo nei prossimi giorni. Ermini: così non ha senso, ma va abolito solo in certi casi. Dunque siamo alla ricerca di un compromesso su questo fronte. Lei è favorevole, domanda, al reato di clandestinità, così come ora è ridicolo, viene punito con una sanzione, un'ammenda da 5.000 euro, ma secondo lei chi si mette su un tir o in mare ha paura di una multa così, che tra l'altro non pagherà mai? Quindi sarebbe meglio abolirlo, ma non si può ridurre tutto a bianco o nero, dice Ermini. Così come ora non ha senso, io dico rivediamo tutti i tipi di condotta e inseriamolo nel disegno di legge di riforma del sistema penale, che è al Senato e deve tornare alla Camera. Quindi diciamo si vuol rimandare il problema, da un lato si vuol rimandare il problema sicuramente, perché insomma, diciamolo chiaramente, il governo aveva in testa di eliminare questa sanzione amministrativa per il reato di clandestinità, perché si è fatta l'idea che non serva a nulla, anzi, secondo, appunto, ripeto, le parole del procuratore nazionale antimafia Roberti, addirittura è un intralcio alle indagini. Io personalmente non so per quale motivo, ma questo è quello che, diciamo, è stato detto in audizione anche alla Camera. Quindi il governo vuole abolire questo reato, ma dopo quello che è accaduto a Colonia, insomma, è chiaro che non è un momento opportuno per fare una cosa del genere. Allora si fa la retromarcia e quindi si studia la soluzione di inserire il reato di clandestinità riformato all'interno di una nuova legge, la legge di riforma del sistema penale. Questo è quello che ci sta dicendo Ermini, responsabile di giustizia del PD, che poi conclude: ma insomma, nella riforma penale si abolirà o no questo reato? Valutiamo i tipi di condotta, per alcuni va abolito, per altri rafforzato per gli scafisti, per esempio, non solo, anche per chi non ha diritto di stare qui. Quindi non si abolisce del tutto, si valuterà caso per caso. E questo è la posizione al momento del governo. Poi c'è un retroscena all'irritazione del Premier per l'agenda strappata sul tema dell'immigrazione, ma anche sulle unioni civili. Renzi non ha gradito di essere stato tirato per la giacchetta in queste polemiche, non avrebbe voluto neanche affrontarle forse queste questioni, se non il tema delle unioni civili. Ma questo è un altro capitolo. Intanto un'altra notizia che ha a che fare col nodo immigrazioni, cultura, religioni, immigrati islamici, la paura per le violenze, per il terrorismo. Perché accade, lo riporta La Stampa in prima pagina, a Vignola, a provincia di Modena: credete in Dio o Allah? E sparano in aria. Questa cosa qua. Allora, 5 studenti di Vignola minacciati in stile ISIS da un gruppo di giovani nordafricani. Allarme e polemiche, poi però gli assalitori si presentano ai carabinieri e dicono: era solo uno scherzo. Vediamo un po'. Che fosse una cosa seria o uno scherzo pesantissimo, si sono spaventati a morte i 5 ragazzini che martedì sera si sono ritrovati di fronte a un gruppo di giovani maghrebini. Siete cristiani o credete in Allah? Li hanno apostrofati i nordafricani, dopo averli minacciati con una pistola scacciacani, con cui hanno pure sparato in aria. I ragazzi stranieri si sono poi presentati spontaneamente ai carabinieri ieri sera, quindi tre giorni dopo, consegnando la scacciacani e dicendo di essersi resi conto della gravità di quello che avevano fatto, che per loro però era una bravata. Sono quattro ventenni residenti a Vignola, 25.000 abitanti in provincia di Modena, teatro di questa aggressione, tutti con regolare permesso di soggiorno, saranno denunciati per violenza privata. Gli inquirenti continueranno a indagare sulla presenza di altri eventuali complici per capire se questi quattro nordafricani hanno agito da soli oppure se stanno coprendo qualcuno, oltre a capire che su quella frase con i riferimenti ad Allah e alla fede cristiana, che getta una luce preoccupante sull'accaduto, appunto alla luce delle tensioni degli ultimi mesi, insomma, abbastanza indicativo dei tempi che viviamo, perché se si tratta di una bravata è una bravata veramente da stupidi. Se era un tentativo di, diciamo, di emulazione di terrorismo su scala più ampia, è ancora più inquietante, altrettanto inquietante. Quasi viene voglia di collegarla a quello che è accaduto ad Hurghada, dove si sono presentati creando il panico, ferendo delle persone, oltre che con delle pistole giocattolo, in quel caso anche con dei coltelli. Capite che il passaggio è breve, purtroppo, è brevissimo. Adesso una notizia da film, una notizia da film. Oh, non è Star Wars, non è una notizia che riguarda, diciamo, la conquista dell'universo o lotte tra galassie e tra il bene e il male, sì, però tra il bene e il male terreno, super terreno, perché anche se può sembrare appunto un film, c'è tra l'altro un film al cinema, adesso non ricordo il titolo, un film con Benicio del Toro su un intreccio di spie americane di lotta al narcotraffico in Messico. È stato catturato il capo dei narcos, El Chapo, si chiama così, nome vero Joaquin Guzman, detto El Chapo. Un'operazione condotta dalla polizia messicana con l'aiuto dell'intelligence americano, proprio da film, con droni, elicotteri, aerei che sono atterrati, dispiegamento di militari. Già me la immagino la scena, proprio da film. Lo scontro è avvenuto a Los Mochis, dopo che il Chapo era scappato già due volte di galera, l'ultima volta nel 2013, aspetta se trovo bene la data, sì, attraverso un tunnel dal carcere di massima sicurezza dove era nascosto. È riuscito a fare un tunnel da sotto il carcere a scappare, una cosa incredibile. Poi c'era già riuscito nel 2001, era riuscito a svignarsela usando un cesto della biancheria sporca. Due episodi seguiti dalle accuse di complicità verso le autorità, perché il Chapo corrompeva le autorità, la polizia, ma anche probabilmente qualche ministro, eccetera eccetera. C'era stato anche un accordo tra lui, questo si dice, una sorta di trattativa stato narcos, un po' come la nostra stato mafia, per fermare altri criminali. Insomma, questo il Chapo era un po' un dominus della criminalità, ma non solo. C'è la foto, l'hanno arrestato, l'hanno ripreso in canottiera col baffo, l'aria completamente stralunata, ma quest'uomo qua praticamente comandava un sacco di gente e gestiva traffici miliardari, credo, a miliardi di euro, anche se a vederlo sembra un poveraccio. Vabbè, insomma, però è una buona notizia. Adesso però, giustamente, il reportage di Guido Olimpio dice: adesso bisogna vedere se non evaderà un'altra volta, la terza, e soprattutto se il Messico concederà l'estradizione in America, dove probabilmente avranno la mano un po' più dura su El Chapo, il capo dei narcos. Ancora la vicenda dei Rolex, i regali fatti alla delegazione italiana in Arabia Saudita a novembre, non restituiti, non subito, perché sapete che c'è un codice etico che vieta ai dipendenti del governo di portarsi a casa regali oltre i 300 euro, una norma inserita dal governo Prodi nel 2007, oltre 300 euro, limite sono i 300 euro per i regali di cortesia. Bene, insomma, ieri il Fatto Quotidiano è uscito con questa notizia incredibile, rivediamo la Riyadh la sera tra l'8 e il 9 novembre nei corridoi del Palazzo Reale di Re Salman. Il premier Renzi è in viaggio con i suoi più stretti collaboratori, il portavoce, il fotografo, l'assistente, video operatore, consigliere economico e diplomatico. Dopo la cena scatta il momento dei regali. Generosi con gli occidentali e pur sempre attenti al denaro, i sauditi hanno previsto due tipologie di scatolette che corrispondono a due tipologie di cronografi massicci Rolex da 20.000 euro e invece per gli altri orologi fabbricati a Dubai che il mercato valuta tra 3.000 e 4.000 euro. Il solito genio, un funzionario di Palazzo Chigi, tenta di sostituire la sua patacca, diciamo, di Dubai con il più famoso Rolex e si catena ovviamente un putiferio, perché il protocollo prevedeva Rolex per alcuni, patacca del Dubai, diciamo così, per altri patacca da 4.000 euro pur sempre, e tutto questo casino viene sedato da un colonnello che guida la delegazione, la sicurezza della delegazione di Renzi. Poi due giorni dopo viene firmata una circolare da capo della segreteria di Renzi che invita tutti a restituire i Rolex, e c'è una nota di Palazzo Chigi che dice che questi Rolex sono nella disponibilità tutti della presidenza del Consiglio, anche se ricorda il Fatto Quotidiano che si può avere un altro stile su questi regali. Per esempio Papa Francesco ha fatto recentemente un'asta di beneficenza con una Lancia Y e dei Rolex che aveva ricevuto anche lui in regalo da altre delegazioni politiche, e quindi, diciamo, con tanto anche di diffusione pubblica dell'asta, no? Per far capire che fine fanno questi regali. Invece no, quelli del governo si sono messi in tasca. Poi appunto immaginiamoci la scena nella notte al Palazzo Saudita con il funzionario italiano che si prende il Rolex anziché l'altro orologio. Poi il Fatto Quotidiano dice che c'è anche una bicicletta che il premier giapponese Shinzo Abe ha regalato a Renzi, che Renzi non ha mai restituito. E va bene, all'italiana, come sempre. 800 24 00 24, il numero verde. Da oggi torniamo in diretta con Si può fare, da dopo il giornale radio delle 8 si potrà intervenire in diretta come sempre, riprendiamo appunto dopo il GR. Ciao, a dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Cause Uptown funk don't give it to you. Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, di nuovo buongiorno a tutti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti e buon anno, perché io non c'ero prima e quindi è la prima trasmissione dell'anno, sono contento. Quando sono le 8 e 18 minuti di sabato mattina riprendiamo. Ah, pensavo dicessi dai il buon anno, forse un po' troppo tardi, hai ragione. No, riprendiamo con le nostre dirette il sabato e anche la domenica mattina, naturalmente domani riprenderemo alle 8.30 fino alle 10, con Si può fare, buongiorno nel weekend. Di Radio 24, 800 24 0024 per intervenire in diretta, per chiacchierare con noi. Certo, anche perché l'ultima volta che ci siamo sentiti, cioè che ci siamo sentiti con me, e eravamo al telefono e avevamo al telefono Monica Cirinnà della omonima legge Cirinnà, che ha detto che se la legge passa viene lei a sposarmi con il mio ragazzo, sì, a giugno a Milano. Quindi l'ultima telefonata che ho fatto, appena ho attaccato, ovviamente poi ho dovuto dare spiegazioni a tutto il mondo, a mia mamma, non solo, a chiunque. Quindi tre giorni dopo poi succede che il dibattito sulle unioni civili si, diciamo, come dire, si incaglia di nuovo, sì, sulla questione della stepchild adoption di qua di là, e quindi diciamo non sappiamo se passa, sarà non passa, lei se ha detto, la cambia sarà la volta buona. Anche Renzi in conferenza stampa di fine anno ha detto sì sarà la volta buona, più diritti per tutti non fanno male a nessuno, più diritti per qualcuno non fanno male a nessuno, questo è il nostro slogan, ma insomma vediamo. Sì, in realtà si è riparlato di quella cosa che gli abbiamo chiesto molto precisamente, ovvero se lei avrebbe tolto la stepchild adoption all'articolo 5 della sua legge. Lei ha detto: io non lo tolgo di sicuro, nel caso è un emendamento. Sapevamo tutti che nel caso sarebbe stato un emendamento, e stiamo aspettando per capire se arriverà o meno questo emendamento e da che parte arriverà, ovvero se arriverà dal PD o dall'altra parte. Allora, tra poco parliamo di Wi-Fi, Wi-Fi nelle scuole, principio di precauzione. Per questo il sindaco di un paese lo ha fatto togliere dalla scuola elementare media di quel paese. Vedremo perché, in assenza di diciamo di basi scientifiche molto solide o abbastanza solide, è stata presa questa decisione. Naturalmente, per non sapere la salute dei bambini, sì. Certo, io per non saperne leggere né scrivere, intanto ho tolto il wifi del mio telefonino, così sono più tranquillo. Adesso però all'800 24 0024 vi vogliamo anche chiedere questa mattina di sognare un po' insieme, insomma, di raccontarci qual è la vostra favola preferita. Perché? Perché la rivista americana letteraria The Atlantic è uscita con un'inchiesta e, insomma, un articolo riportato qualche giorno fa da Massimo Gramellini sulla Stampa dice che soltanto gli inglesi sono in grado di inventare favole. Pensiamo a Harry Potter, pensiamo a Tolkien, eccetera eccetera, e quindi è un po' una sfida. Sì, anche, in realtà, no? Tolkien proprio che favola è il fantasy, sì, quindi diciamo la versione moderna delle favole, che è il fantasy, esatto, in questo senso. E quindi diciamo che negli altri paesi del mondo si è un po' inaridita questa linfa, questa capacità di far sognare i bambini ma anche gli adulti con le favole. Favole, allora noi vogliamo un po' rispondere. Intanto ci sono delle favole italiane da Pinocchio. Cioè, la vera domanda è: dopo Collodi, quale altro italiano ha scritto delle favole? Questo? Famose o conosciute nel mondo? Gianni Rodari, per esempio. Vabbè, insomma. Però è anche vero che forse molti di noi italiani, molti italiani in realtà inventano e raccontano favole, sì, tutti i giorni. Ne sai meglio, lo sai meglio. No, no, non era una battuta sulla politica, ma era: raccontano favole ai propri figli e magari le inventano. Perché a me è capitato con i miei 10 nipoti, capita spessissimo che mi dicono: zio, ci racconti una favola, e uno deve inventare di sana pianta. E anche quelle sono favole, sì. Sono favole che poi, come dici tu, non diventano probabilmente famose, non vengono pubblicate. Però se abbiamo degli ascoltatori che conoscono delle favole che inventano loro per i loro figli, noi quelle le vogliamo sentire, sì, sì. Vogliamo rispondere anche a Gramellini. 20 secondi di una favola vostra ce li potete raccontare. Se in 30, 20 secondi, 25 secondi riuscite a renderci conto dell'idea di questa favola che avete inventato, per esempio, per vostro figlio. Esatto. Facciamo col meccanismo come con i bambini. Cioè, se io non mi addormento entro 20 secondi, la favola va bene. Ah no, però forse è il contrario, perché se il bimbo si addormenta, la favola è buona. Anche questo è un bel mistero. E anche oggi in palio mettiamo due biglietti al catalogo, questa volta della mostra di Barbie, che è a tema, se vogliamo, la mostra di Barbie, a tema sulle favole, che è al MUDEC di Milano, organizzata sempre dal gruppo 24 ore. 800 24 00 24. Vi aspettiamo dunque con le vostre favole preferite. Vai! Every day, every night, every second of my life. Che fai? Chissà, ci penserai. Tu come stai? È qualche mese che non ci sei. Vedrai, mi scriverai. Ma come stai? Erano i Gazzosa, te la ricordi questa? Certo che me la ricordo. Era il 2001, mi piaci tu, perché di questo in effetti parliamo. Come detto, parliamo con il sindaco di Borgo Franco di Ivrea, Livio Tola, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Che nelle scuole elementari e medie della sua città, lui e la giunta comunale, hanno voluto eliminare il Wi-Fi per questione di... Perché l'avete voluto eliminare? Ce lo dica. Guardi, sul Wi-Fi ci sono pareri discordi. Sì. Vabbè, salvo il fatto che il Wi-Fi permetta una connessione ovunque. Però, certo, diciamolo per chi non lo sapesse che cos'è il Wi-Fi, sì. Perché ci può essere anche giustamente qualcuno che non lo sa, è la connessione senza fili. È internet, esatto, senza fili, internet per senza fili, quello che ormai c'è un po' da tutte le parti, perché è molto comodo, uno arriva, tac, si aggancia e via. Sì? Dato che alcuni studi sostengono che appunto le onde elettromagnetiche di questa tecnologia possano provocare danni alla salute delle persone, altri studi invece sostengono che la frequenza di queste onde, essendo molto bassa, non sia pericolosa, quindi c'è chi da una parte minimizza un eventuale pericolo, c'è chi dall'altra fa terrorismo. Quindi come amministrazione noi abbiamo messo in pratica appunto quello che è il principio di precauzione, nel senso che quando si ha un dubbio, quando non si è certi che qualcosa possa generare pericolo per la salute, allora è meglio per prudenza essere cauti, mettere da parte questo qualcosa e attendere risultati precisi. Quindi come abbiamo fatto noi nelle nostre scuole elementari medie, abbiamo optato per la cablatura, quindi tutte le aule della scuola, che sono 16, sono cablate con linea ADSL, stessa cosa per i due laboratori di informatica, quindi è stata detta una cosa sbagliata, che è stato vietato il wifi a Borgo Franco, no, assolutamente, è solo stato scelto un Cioè avete sistema... cambiato modalità per connettere, no, insomma, nelle scuole. Soprattutto non è stato vietato internet, cioè quelli che hanno detto è stato vietato internet è sbagliato, perché semplicemente internet ce l'avete ma è cablato, che come ce l'avevamo tutti fino all'altro ieri, peraltro. Sì, esattamente, quindi si dà la possibilità agli insegnanti della scuola elementare, ai professori delle medie, di compilare il famoso registro elettronico direttamente in classe dal PC. Si dà la possibilità di fare lezioni collegandosi a internet, che se usato bene è uno strumento importantissimo. Quindi anche gli alunni non sono assolutamente privati di questa opportunità, ecco. Senta, sindaco, appunto... però restando su questa materia, perché è una materia delicata, no? Cioè questa questione, naturalmente quando si parla di onde elettromagnetiche, di sicurezza, di salute delle persone, specialmente in questo caso di bambini e ragazzi, il tema è delicato, ma proprio perché delicato e chiaramente a carattere scientifico, io le chiedo, voi come vi siete documentati? Perché appunto lei lo ha fatto in premessa, giustamente, al momento ci sono degli studi o anche delle conclusioni, magari parziali, da parte di organi di sicurezza, per esempio in America, che dicono tranquilli, il wifi non è dannoso per la salute, sono più dannosi semmai per esempio i cellulari, no? Poi c'è un, io ho letto uno studio di due ricercatori, credo canadesi, che dicono, mettono in discussione questi risultati, no, guardate, non bisogna stare così tranquilli col wifi perché può essere dannoso, però diciamo è una controdeduzione di due ricercatori. Quali sono le basi, diciamo, scientifiche? Avete fatto una ricerca, avete allargato, avete chiesto a dei medici? Esatto, no, è logico, ci siamo documentati io, su riviste specializzate, io ho partecipato a delle serate organizzate da un comitato qui di un paese in canavese proprio sul tema wifi, e abbiamo chiesto parere a esperti, e visto che non c'è una sicurezza sul fatto che posso o meno essere pericoloso per i bambini in tenera età, te tengo a precisare, appunto abbiamo fatto questa scelta. Fra l'altro, ecco, all'interno del nostro gruppo tengo a precisare che ci sono tre insegnanti, una di scuola materna, una di scuola elementare, una di scuola media, che hanno condiviso questa scelta. Quindi diciamo il principio di precauzione in particolare sui bambini, perché mentre sugli adulti magari uno può dire sicuramente non fa male, sui bambini che hanno... Appunto, parlavamo di questi studi, pare che nei bambini in età di sviluppo, proprio per il fatto che la scatola cranica sia più sottile, la massa muscolare inferiore rispetto a quella di un adulto, ecco, siano più esposti a queste onde elettromagnetiche. Però ma lei ce l'ha a casa il wifi, sindaco, per esempio? Ma io personalmente no, ce l'ha mio figlio, a volte si connette con la cablatura, a volte col wifi, ma io poi guardi, a Borgo Franco ci sono dei locali pubblici, tanti che hanno il wifi, in due piazze abbiamo il wifi, cioè, per carità, non è una battaglia contro i mulini a vento, ben venga, ma quantomeno nelle scuole, visto che i bambini devono starci 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana per 9 mesi, quindi evitiamo magari un'esposizione lunga, prolungata, finché i dati scientifici non smentiscono questa. Certo, però mi scusi, il dubbio in questo è capire se tutto ciò può creare dell'allarmismo. Glielo chiedo perché io personalmente, nel senso che sono molti anni che si dice farà male, non farà male il wifi, si è deciso che non fa male e tutti ci stiamo chiedendo se si è deciso così semplicemente perché qualcuno ha interesse a dirci che comunque va bene, perché il giorno che scopriremo che internet fa male sarà un disastro e sarà un giorno molto tragico. Però quello che io mi chiedo, con i dubbi che tutti hanno, il rischio, se lei decide prende una decisione così netta, è quello, giustamente dice, ma come, se fa male tanto che il sindaco decide di togliere da scuola, io lo devo togliere da casa mia, perché io ho dei figli, devo toglierlo da casa mia. E quindi non so come dire, bisogna veramente, è una decisione un po' più grande che solamente del sindaco del proprio paese, mi chiedo. Oppure io mi preoccuperei, perché dico, allora lo devo togliere. Ma guardi, ognuno a casa sua è padrone di fare ciò che vuole. Ma ci mancherebbe, no, ma perché io mi fido del mio sindaco, è questo. Però, appunto, dato che il sindaco è responsabile della salute delle persone, deve adottare tutte le precauzioni per garantire la salute della cittadinanza. Ecco, a me è sembrata questa scelta andare in questo senso. Poi voglio dire, ognuno a casa sua è libero di fare ciò che vuole. Voglio dire, anche mio figlio ha il wifi. Però voglio dire, ecco, lo accende quando è necessario e prima di uscire di casa lo spegne. Ecco. Ma anch'io, per esempio, io ce l'ho a casa, no, sindaco? E sì. Ho una bambina piccola, adesso ne ho due, un'altra appena nata, gli ascoltatori lo sanno, abbiamo parlato mille volte di Viola, sì. Dolga, e mi sono detto con mia moglie, ma che facciamo, lo spegniamo, perché in effetti di notte ho letto anch'io qualche cosa. Poi l'ho lasciato così, come credo molti ce l'hanno, perché appunto al momento, come diceva Carlo, sembra che i risultati scientifici dicono che non faccia male. Insomma, però lei ribadisce che nell'indecisione, nell'insicurezza, all'interno della scuola, almeno per quelle 8 ore lì, lo avete voluto eliminare. Esatto, in attesa di risultati certi e sicuri, ecco. Su questo posso anche venirvi dietro, perché in fondo, Carlo, se ci pensi, internet i ragazzi ce lo hanno. Che necessità possono avere dei bambini di 8, 9, 10 anni di essere connessi sul wifi? No, ma infatti questo, se volendo, è una questione in più, perché qualcuno dice, tutti gli studenti usano il telefonino a scuola, questo è un modo, perché il telefonino non lo puoi attaccare con il cavo, quindi in realtà ci sarebbe la possibilità, in questo modo che ha scelto il sindaco, di avere internet a scuola per tutte le cose per cui internet serve, ma non di non averlo, per esempio, per giocare a Candy Crush sul proprio telefonino. Quindi potrebbe essere anche questo, sindaco. Se c'era anche un percorso pedagogico in questo, come per dire, internet va bene, esiste, però c'è una postazione dove tu vai e puoi usare internet, ma non è che lo continui a usare sul tuo telefonino. Sindaco? Sì, pronto? È così? Potrebbe essere questa anche una... Certo, io so che il telefonino a scuola è vietato e ci mancherebbe, spero che quantomeno durante l'ora di lezione. Nelle elementari poi sarebbe un'assurdità, nelle medie, vabbè, tutti gli alunni delle medie ormai ce l'hanno quasi tutti. Sì. Però ovviamente sta poi agli insegnanti, mi sembra che il regolamento di istituto lo vieti l'uso, sì. Poi certo, magari uno può tenerlo nello zaino e se c'è il wifi si collega. No, ma e devo dire, no, l'ultima battaglia, in realtà, è che questa battaglia, se dovesse proseguire, dovete anche mettervi d'accordo con i produttori, perché le faccio un esempio. Io ho un computer che ovviamente ha internet, ma non ha più l'attacco del cablaggio. Io ero un appassionato del cavo, anche quando andavo in albergo chiedevo se c'era il cavo in stanza per avere internet, ma adesso moltissimi computer non hanno più proprio l'entrata del cavo, io ho solo il wifi sul mio computer. Ecco, lì sta alla tecnologia, all'industria, provvedere alla possibilità di dare entrambe la possibilità di entrambe le connessioni, ecco. Che vuol dire che deve combattere contro Apple, non solamente contro il suo consiglio comunale, che è un mostro un po' più grande. No, ma io spero comunque vivamente che alla fine si smentisca questa pericolosità, perché lo speriamo, ecco, tutti. Se mai vi metteremo in contatto, sindaco, con la cooperativa Rimaflov qua alle porte di Milano, che recuperano i computer usati, vecchi, e li regalano alle scuole, e in quel caso non c'è problema di cavi, di attacchi e di cablaggi. Grazie, sindaco, in bocca al lupo per lei, per grazie, la sua, per le scolaresche di Borgofranco. E ascoltatori all'800 24 00 24 vi aspettiamo anche per commentare questa notizia, che, come hai detto giustamente tu, Carlo, diciamo, riapre un po' infatti sui giornali è andata in questi giorni, no? La questione wifi fa male, non fa male. Io sono un po' paranoico, quindi appena sento una cosa che dico, ma effettivamente se si scoprisse che fa male è un disastro. Però loro dicono, anche se non fa male, in ogni caso noi lo eliminiamo nell'incertezza, senza arrecare danno alcuno, perché internet c'è. È vero, perché questa cosa qui dovrebbe essere fatta finanziando uno studio, che dovrebbe essere uno studio mondiale gigantesco, che costerebbe tantissimi soldi, per veramente finalmente capire questa cosa. Perché se no, se aspetti, ho la sensazione che entro settimana prossima non è che ci diranno, oh ragazzi, il wifi fa male. Andiamo in pausa, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, cari ascoltatori, ben ritrovati. Si sta scatenando il dibattito su Wi-Fi, sull'SMS. Per esempio, ci scrive Paolo: l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice un anno di esposizione al Wi-Fi uguale 20 minuti di cellulare. Può darsi, ma infatti noi... Ma noi ne siamo felicissimi, peraltro. Io, se fossi così, sarei veramente felicissimo. Io a casa ce l'ho. Però insomma, ci sembrava interessante capire le motivazioni che hanno spinto questo sindaco nelle scuole della sua città a toglierlo. Qua parliamo di bambini, però in effetti la differenza è che i bambini non usano il cellulare, lo usano gli adulti, che hanno già il corpo formato, cresciuto. Sappiamo che nella fase di crescita degli organi dei bambini la situazione è più delicata. Quindi, insomma, nell'incertezza... poi devo dire che appunto nell'incertezza un sindaco che si preoccupa comunque della salute delle persone senza avere controindicazioni, perché alla fine questa cosa non ha controindicazioni, qualche spesa in più forse per cablare la scuola, no? Questo non te lo so dire, la vera cosa è che non ha la controindicazione, certo, perché internet ce l'hanno dentro la scuola. Questo mi sembrava il dato più interessante, esatto, perché sennò tutti titoleranno ha tolto internet. Strappa internet dalle mani dei bimbi. Se sei in un'azienda o in un'azienda editoriale o comunque dove ormai ovunque il PC in movimento è importante, togli il wifi, sicuramente togli uno strumento di lavoro a delle persone, però in una scuola in effetti elementare, in una scuola media dove... Anche perché il wifi ce l'abbiamo tutti, nel senso che quando non c'è il wifi ci attacchiamo con il nostro operatore, è semplicemente un fatto che spendiamo i giga del nostro contratto telefonico invece che quelli del wifi che pagherebbe la scuola. Ma sentiamo anche che cosa ne pensano gli ascoltatori della notizia che viene da Borgo Franco di Ivrea, e poi naturalmente anche con le vostre favole italiane. Andiamo cominciamo con Anna Maria da Firenze, buongiorno. Io sono stata informata da un ingegnere delle questioni ambientali, sì, che è vero, il cellulare può salvare delle vite per il soccorso, così, però sì, bisogna sapere che per ogni antenna ripetitrice dei cellulari si formano uno o due casi di leucemia l'anno. Poi è, diciamo, molto... Chi lo dice questo, però? È un ingegnere, delle questioni ambientali, che non faccio il nome per discrezione. No, ma può fare anche il nome, anzi, noi abbiamo bisogno di informazioni, più informazioni abbiamo, meglio stiamo, sì. La prego, me lo eviti, comunque sono una persona onesta, quindi. E poi noi abbiamo, per esempio, le scarpe gommate, prima si usavano le suole, per cui quando usciamo noi ci invidiamo di questioni... diciamo campi elettromagnetici. Sì, no, è vero, siamo immersi nei campi elettromagnetici. Anna Maria, è vero, è verissimo. Ma infatti è per questo che noi abbiamo ospitato il sindaco di Borgo Franco, perché è un tema che ci sta tutto. Poi però bisogna agire, io credo, nel nome di quello che sono le conclusioni a cui giunge la comunità scientifica, la maggioranza della comunità scientifica. Non l'ingegnere perché, amico suo, perché sennò diventa anche molto difficile, una persona onesta, molto difficile, che tanti ha, che studia, insomma, esatto. Fino a prova contraria, così, per ogni antenna sicuramente uno o due casi è molto difficile, è ovvio che poi ci spaventiamo tutti per qualunque cosa, appena c'è qualcuno che dice qualcosa di scientifico ci spaventiamo, però o ci fidiamo diciamo dell'organizzazione superiore, oppure ognuno fa per sé. Paolo da Lecce, buongiorno. Buongiorno a tutti. Prego. Buongiorno. Eccolo qua. Volevo intervenire a favore del wifi. Sì, non è una battaglia comunque. No, ovviamente no, però Forse un pochettino sì, perché c'è così tanto tanto da fare per portare internet in tutta Italia, quindi forse questo piccolo tassello potrebbe aiutare ad invogliare. E volevo dire che sì, va bene il principio di precauzione, che vuole che fare qualcosa in meno per evitare qualche danno nel futuro, ma se c'è questo danno. Dicevo che basterebbe aprire lo scatolo dei modem Wi-Fi, sì, e leggere la potenza che sono autorizzati a emettere. Parlo tecnicamente, ma sono 100 milliwatt, 20 dB, e sono la potenza che per accendere un piccolo LED, il LED piccolino della televisione o piuttosto del nostro della nostra radio sveglia accanto al comodino, quella è la potenza di un modem Wi-Fi. Sì, ma infatti il problema è, secondo me, comincia a sussistere nel momento in cui ci sono tante di fonti che emettono onde elettromagnetiche, possono essere il Wi-Fi piuttosto che altre, e ci siamo immersi sicuramente, e insomma forse ancora, diciamo, una parola definitiva su questo la scienza non so se è in grado di darla, perché poi è una cosa dai, questo in evoluzione, cioè, tu dici, tu hai la certezza che comunque il Wi-Fi, la potenza del Wi-Fi, il massimo che può fare è la stessa cosa del LED del televisore? È un piccolissimo LED, sono 100 milliwatt. Posso dire solo una cosa, probabilmente l'equivoco può nascere, sì, perché la frequenza di trasmissione del Wi-Fi è la stessa del microonde. Cioè, sì. Il microonde non fa altro che eccitare quella molecola d'acqua presente negli alimenti. Allora uno dice, ma teoricamente potrebbe riscaldare i tessuti se messo a contatto, però un LED non scalda, quel piccolissimo LED non sto parlando neanche, cioè, rischi che si scongela la cotoletta se attacchi il Wi-Fi. Sì, ma il mio microonde sono 900 watt, cioè 10.000 volte di più, sì, di quel piccolo LED. Cioè, il problema è, però quello che qualcuno si chiede è se ci sono 10.000 impianti Wi-Fi, io cuocio come un pollo dentro nel forno a microonde, è così? No, grazie al cielo no, perché il canale su cui trasmettono, sì, più di tanto non può fare. Una volta che abbiamo superato i 100 milliwatt, semplifico, ovviamente, sì, il tecnico sarebbe, sì, molto più preciso, non funzionerebbe più, non ci collegheremmo. Se superassimo quella soglia, tutti gli apparati che ci mettono sopra, il dispositivo non funzionerebbe più. Quindi diciamo che è quasi automatico. Si terremmo. Paolo, vediamo se ho capito bene. La frequenza è la stessa, ma la potenza è molto minore, è così? 10.000 volte, se non anche di più. Cioè, sto parlando dei limiti massimi. Un piccolo aneddoto, in America è il doppio di quella europea autorizzata, quindi diciamo che gli americani sono anche più fobici degli europei, solitamente hanno autorizzato. A volte sì, a volte sì. Beh, basta vedere il caso Volkswagen. Volte, grazie Paolo, buona giornata. Grazie. Ciao, mille. Chiudiamo con un altro ascoltatore al volo prima del traffico. Rosario dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo raccontare la favola, visto che... Ah, benissimo, sì. Che bello. Allora ci prepariamo. Cioè, hai un racconto o ci devi dire un titolo? No, io ho una mia favola che ho dedicato e raccontato ai miei tre figli. Però la regola di ingaggio è che ce la devi fare in 20-25 secondi, devi riuscire a dirci almeno l'inizio, oppure la sinossi, vai. Allora, il titolo è La vecchia carriola, praticamente. Questa vecchia carriola era stata abbandonata in cantiere nel magazzino. E al suo posto c'era una bellissima fiammante carriola che tutti la volevano, tutti i muratori o chi sia che lavorava nel cantiere la volevano perché era bellissima. Un giorno si ruppe sotto il peso di una, una premessa che passando vicino al magazzino, le due carriole comunicavano tra di loro perché avevano un'anima, quindi la nuova carriola si vantava di questo e la vecchia carriola nel magazzino abbandonata si demoralizzava sempre. Sì. Un giorno sotto appunto questo pesante trasporto di mattoni si ruppo di manici alla nuova carriola. Al muratore venne in mente che nel magazzino c'era questa vecchia carriola e andò a prendere e la ritirò fuori. E lì nasce la seconda parte della favola, la rinascita della vecchia carriola. Sì, immagino. Ci fu il trasbordo dei mattoni pesanti. E la morale qual è? Dove tu ti sei hai ceduto, io continuo. Perfetto. Beh, bellissima, è bellissima. Ma la carriola, però, la carriola è già una parola difficile per un bambino. Bisogna spiegarglielo che cos'è una carriola. Infatti, gliel'ho spiegata. Però è bello perché vecchia carriola comunque suona bene. Vecchia carriola lo si dice anche per le automobili vecchie, o a volte lo si dice anche per le persone che si pensa che non possano più essere in grado. Quindi mi sembra. Bravo Rosario! Una bella metafora. Bravo Rosario, cominciamo oggi bene. I miei figli hanno 27 anni, Mattia, 20 anni, Moreno. E tutti e due lavorano in un cantiere? No, ancora no. Questo era bello. 17 la Marica che ancora oggi se la ricorda. E magari la racconteranno ai loro figli quando ne avranno. Hanno già figli? E lei già nonno, no? No,

Esatto, non lo so. No, volevo dire un'ultima cosa che mi sembra molto bella. Che ho visto che all'interno c'è anche un sistema di gestione finanziaria per dividersi le spese tra padre e figlio. Questa la trovo, scusi, tra padre e madre. E la trovo una cosa molto bella, perché immagino che sia sempre anche un po' spiacevole che uno spende 17 euro per uno, e come fa a chiedere gli altri 8 e mezzo all'altro partner? Come funziona? Allora, anche qui la parte finanziaria è fatta un po' per non discutere, perché appunto uno rimane a fine mese. Guarda, come dicevi te, ci sono anche altri 8,50 euro. Allora, funziona in questo modo: vengono impostati, allora, quando scarichi l'app gli devi dedicare, diciamo, 20 minuti iniziali per inserire tutti i dati. Ovviamente non è che te li percepisce da sola, quindi devi inserire il nome dei figli. È un'app, non è una mamma. Però noi non abbiamo più tempo per descrivere l'app, perché i nostri minuti invece sono finiti a disposizione. Allora abbiamo il giornale radio. Giuditta, grazie comunque per essere stata con noi. Grazie, complimenti. Online trovate tutto quello che vi serve se siete separati, interessati a questo. A dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo. Buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buongiorno e buon sabato a tutti. Intanto una piccola precisazione: voglio scandire bene come si scrive la app per genitori separati. Two Houses si scrive proprio con due di numero, houses, la parola casa in inglese, il plurale, case. Quindi due case, H-O-U-S-E-S, e la potete scaricare, l'ha detto Giuditta, credo, su tutti i vari store dove sono le app, eccetera eccetera. Altrimenti le informazioni le trovate andando su Jangle, che è la sintesi tra genitori e single, genitori separati, il social network per genitori separati di cui Giuditta ci ha parlato con tanta passione. Ma adesso è il momento di salutare e di presentarvi Marco Bianchi. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Ciao. Buongiorno, ciao Marco, sono Carlo Gabardini. Ciao Carlo, come andiamo? Benissimo, benissimo. È il mio personal trainer, per questo lo dico. Marco Bianchi è divulgatore scientifico, è un personal trainer. Adesso hai un programma ancora su Sky da qualche parte? No, in questo momento. Sono su Rai, quindi sono su Rai 1 con la nostra super Antonella Clerici, quindi ogni giovedì la mia rubrica della salute. Giusto, io ti ho conosciuto su Sky e adesso ti associavo a Sky. E caro Marco, con te vogliamo commentare questa notizia che viene dall'America, e non poteva che venire da lì, perché si sta diffondendo la, come vogliamo chiamarla, mania, ma è una mania positiva, è una cosa positiva, del mall walking. Anche qua parole in inglese a go-go, giustamente venendo dall'America non poteva che essere così, cioè parliamo dell'abitudine di camminare nei centri commerciali, che sono un po' le nuove piazze, diciamo. Sì, ma onestamente può anche andare bene, magari meno al portafoglio, perché sicuramente poi viene da spendere... Tra una camminata e l'altra. Bisogna camminare a occhi chiusi, forse. Ma, insomma, non lo so, poi in questo periodo di saldi può diventare da un lato un beneficio, dall'altro un po' meno, però... In effetti pensiamo alla salute, ed è un qualcosa che cerchiamo da anni di promuovere, perché abbiamo parecchi anni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità lanciò i famosi 5.000 passi, quindi i circa 3,5 chilometri al giorno, da poter fare per poter appunto fare una vera e propria prevenzione. Addirittura, anzi, anche tantissimi cardiologi, anche un amico cardiologo proprio ha presentato il progetto Cuore, cioè promuove il progetto Cuore, che è un progetto del nostro Istituto Superiore della Sanità, per il quale proprio si spinge al movimento, all'attività fisica, ma quotidiana, perché questo è il gioco forte. Cioè, si è osservato ormai da anni che non è tanto un giorno a settimana di movimento, ma è la quotidianità che permette di aiutare a prevenire l'osteoporosi, il diabete di tipo 2, quindi livelli anche di zucchero, di glucosio che circolano nel sangue, riescono ad abbassarsi, così come i grassi circolanti. Quindi è una serie di azioni che quotidianamente facciamo proprio per evitare poi quelli che possono essere i danni peggiori nel corso. Senti Marco, ma siccome ogni volta che interviene l'Organizzazione Mondiale della Sanità poi ci si discute sul fatto se questi limiti siano troppo alti, troppo bassi, pensiamo non so alla questione dello smog di cui si è parlato molto nei giorni scorsi, sappiamo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità fissa dei limiti più severi, poi invece alcune altre organizzazioni come l'Europa o anche in Italia alzano un po' questi limiti per starci dentro un po' più comodi. Questi invece in questo caso i 3,5 chilometri, secondo te i 5.000 passi sono un obiettivo molto ambizioso, giusto? Non, appena sufficiente? No, personalmente parlando è appena sufficiente, si potrebbe sicuramente fare un po' di più, poi purtroppo ognuno di noi ha i suoi buoni o cattivi motivi purtroppo per poter spingere di più su questo acceleratore. Cambierà molto, no, anche che sono tanti, età, sono esempio, tanti, no? 3,5 chilometri. Ma no, sembrano tanti, però guardate che basta veramente due scale. A me sembrano pochissimi 3,5 chilometri. Sì, no, è un niente farli, perché se pensiamo in termini di tempo è neanche un 25 minuti di passeggio. Poi quindi, in una giornata stiamo dicendo, in tutta una giornata. 24 ore, quindi insomma direi che ci stiamo abbondantemente. Quindi che c'è il tratto che fai per andare a prendere l'autobus o la metropolitana, o anche semplicemente la macchina, andata e ritorno, le camminate che fai in giro per casa, o se vai a fare la spesa, sommando tutto. Beh, se contano, se valgono anche quelle in giro per casa, allora forse ce la posso fare, effettivamente. E infatti, esatto, e infatti è per questo che probabilmente funziona molto il mal walking, ovvero andare a camminare. Perché uno è lì, gli anziani sono lì, e a me sembra buono, perché la notizia è che in realtà in alcuni centri commerciali americani viene anche codificata una sorta di camminata, come per dirti, se tu cammini da qui fino a lì e lo fai tutti i giorni, hai fatto i tuoi 3 chilometri, 2 chilometri, x chilometri. Vengono indicati anche proprio le distanze tra, per dire, una galleria commerciale e l'altra, perché sono enormi i centri commerciali. L'unico problema è che sono anche arricchiti di fast food, di junk food in generale, quindi in realtà forse hai ragione, perché questi percorsi vengono segnalati dicendo lei può fare 1,7 chilometri andando da McDonald's a Burger King, che effettivamente forse è un po' più dannoso che benefico. Hai ragione, bisogna stare un po' attenti, infatti. Per fortuna da noi, perlomeno in questo momento, sembra che un po' l'italiano abbia riconosciuto questo effetto comunque benefico, tanti medici ormai ne parlano, e quindi sempre più cerchiamo di siamo più sensibili all'argomento. Quindi, possiamo anche suggerire, oltre che come fanno gli americani, di camminare per tenersi in forma nei centri commerciali, anche semplicemente di andarci a piedi, magari non al centro commerciale ma in un normale negozio, e l'effetto è lo stesso, no? Cioè uno fa quella camminatina, poi torna a casa con le due sacchettine. Vedi perché tu sei italiano, invece questa cosa qua è americana, perché tu dici andare a piedi. Se tu vai a piedi in un centro commerciale e poi non compri niente, perché sennò lo devi riportare a casa, e dici come lo porto lo stendino a casa, come porto il televisore invece a casa. Se vai col SUV, certo, loro ti dicono vieni col SUV, qua fai la tua bella camminata, così compri il televisore e lo butti dentro nel SUV. No, però è giusta la cosa che diceva Alessio, quindi è vero, altri consigli oltre a questo, oltre a questo di camminare nei centri commerciali, anche perché forse per fortuna da noi si va un pochino meno nei centri commerciali, o perlomeno si sverna un po' meno nei centri commerciali. Cos'altro si può fare, Marco, per tenere fede a questi 5.000 passi al giorno? Qualche trucco? Sicuramente appunto il classico di parcheggiare la macchina prima o scendere prima da qualche mezzo pubblico. Veramente basta poco, perché basta realmente una fermata prima, sia all'andata che al ritorno. Beh, dici poco, ma questa è un'idea perfetta, io non ci avevo neanche pensato, cioè basta scendere una fermata prima e tu sai che arrivi a casa comunque quel mezzo chilometro lo fai. Assolutamente, per di più consiglio sempre di scaricare, parlavate di app poco fa, e nei vari store ci sono migliaia di app più o meno attendibili, sbagliano magari di 100-200 metri e ce lo lasciamo sbagliare, che permettono appunto di calcolare le distanze che facciamo attraverso il movimento della gamba, quindi lo sente, tu imposti la tua apertura di gamba e quindi si va, insomma, e lì a fine giornata si conteggiano i passi. Io leggevo addirittura da qualche parte alzarsi durante la pubblicità del film, quando sei la sera svaccato sul divano, possiamo dire. Questo perché è una grande, un gran consiglio, viene addirittura da Michelle Obama, che consigliava non solo di alzarsi durante il film, la pausa, ma soprattutto di alzarsi durante la giornata in ufficio e andare a fare i propri bisognini, anche una semplice pipì, al bagno più lontano che c'è nel luogo di lavoro, quando è possibile ovviamente. Quindi se ci sono più bagni, scegliere più lontano. Cioè che è il contrario esatto di quello che ormai ci siamo abituati in questi anni a fare, cercare di avere la macchina più vicina, il bagno più vicino, tutto più vicino. Invece abbiamo sempre sbagliato tutto praticamente. Però sbagliando si impara, quindi si dice così, in effetti abbiamo tutti ormai i presupposti per poter migliorarci e insomma, e farci del bene. Poi oggigiorno appunto le città sono comunque abbastanza inquinate, quindi ben venga lasciare la macchina parcheggiata da qualche parte e muoversi il più possibile a piedi. Il bike sharing ormai è abbastanza condiviso in tantissime città. E la bici quanto vale rispetto ai passi? Cioè 5.000 passi in quante pedalate sono? Quante pedalate sono? Della bici dobbiamo considerare più o meno, come consiglia proprio anche l'Istituto Superiore di Sanità, più o meno corrisponde alle nostre 3 volte alla settimana di un'attività aerobica da 20 minuti. No, non quindi ho capito. Se non camminiamo, andare in bici 3 volte a settimana per 20 minuti, vai a pareggiare le camminate, diciamo, quotidiane. I famosi 5.000 passi ogni giorno diventano 3 pedalate da 20 A me già minuti. Piace, perché così è 3 giorni su 7, non 7 su 7, già mi sento più rinfrancato. Marco, resta con noi, facciamo una piccola pausa per il traffico, poi voglio commentare con te anche una notizia che mi ha molto amareggiato, perché c'è uno studio pubblicato qualche giorno fa dal European Journal of Public Health che dice che a rischio obesità sono soprattutto i bambini delle famiglie più povere, che uno già è povero eppure rischia anche di più di diventare obeso. Tra l'altro non si capisce perché se uno è povero pensa a meno disposizione, perché mangia grassi orrendi. Mangia grassi orrendi, evidentemente. Dopo ne parliamo tra un attimo, dopo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Cari ascoltatori, voi in che modo fate, rispettate questa regola dei 5.000 passi, 3 km al giorno di camminata, e le vostre strategie, trucchi strani? Carlo ha cominciato a fare delle strane flessioni. Volevo provare ad alzarmi in piedi anche mentre parlavamo, ma giustamente c'è il regista che mi fa segno dicendo che se mi alzo in piedi esco dal microfono, quindi è una stupidata. Nulla. Marco Bianchi, Marco, allora tu hai scritto tra l'altro quest'anno La mia cucina italiana, un viaggio nelle ricette della tradizione italiana, ma reinterpretate in chiave sana e giusta. Beh, diciamo subito che l'italiano, l'Italia in generale è un paese in cui realmente mangiamo meglio in tutto il mondo rispetto a tutti i nostri appunto amici sparsi sul pianeta, quindi siamo già avvantaggiati. Partiamo bene. Nel corso del tempo però ci siamo via via un po', abbiamo peggiorato anche la nostra cucina, abbiamo arricchita di grassi. Abbiamo anche perso quelli che sono i vecchi piatti di un tempo, e in quel libro appunto ho cercato, dopo qualche mese di lavoro, di rivedere vecchie ricette, parliamo proprio delle vecchie ricette tradizionali. Io ho scelto le più buone personalmente parlando, rivisitandole una chiave ancora più healthy, oggi diamo parole in inglese, comunque praticamente sempre più sane, quindi sempre più amiche della salute, e in qualche modo sono ricette, come spesso definisco io, che fanno prevenzione, quindi riusciamo a mettere insieme questi due grandi concetti, che sono la prevenzione ma anche il gusto, e quindi non assolutamente non c'è perdita di quelli che possono essere i ricordi di un tempo. No, scusi, volevo solo sapere se ne avevi qualcuno in particolare, ma insomma niente, adesso è anche presto per parlare di cibo, secondo me sono 9:30 di mattina, forse è un po' presto, siamo ancora in area colazione. Però volevo chiederti di rispondere alla domanda che ti faceva prima Alessio, perché io probabilmente ho risposto male, ovvero la motivazione di come mai i bambini delle persone meno abbienti sono più a rischio obesità. Beh, tendenzialmente proprio perché il cibo purtroppo che costa poco, che è in offerta, che spesso e volentieri appunto troviamo a pochissimi soldi, è anche il classico cibo OHED, cioè definito ad alta energia, ad alta densità energetica, quindi ricco di grassi e zuccheri e povero di fibre, proteine e vitamine. Quindi sono cibi che permettono di saziare per quel momento in cui lo si mangia, però poi non lasciano niente nell'organismo. Eppure vanno bene per un atleta, uno che deve fare sport, una bella tavoletta di cioccolato, una cosa bella. Certo, certo, sì, assolutamente. Il muesli costa più degli hamburger, è questo il problema. Sì, è vero. E quindi niente, tendenzialmente si è visto anche proprio da un'indagine Istat di questo purtroppo consumo che via via sta comunque aumentando anche, ma se pensiamo anche banalmente a sale, a zucchero, a quanto questi alimenti insomma che comunque devono essere utilizzati con una gran parsimonia costino così poco rispetto magari a tanti altri alimenti, ecco, la gente in generale tende più a dare sapore ai propri piatti utilizzando farine raffinate e arricchite poi appunto di magari strani condimenti, ma soprattutto a base appunto di grassi, quindi questo è il problema e ahimè insomma partecipano la gran parte delle famiglie appunto che dispongono un po' meno economia. E poi bisogna andare al centro commerciale a camminare in quel caso per smaltire il mall walking. Grazie. L'ho Marco. L'ho lanciato anche su Facebook. Sì? Ho lanciato su Facebook proprio stamattina ricordando di imparare appunto a muoversi, ricordando di muoversi, e tanti amici ci ricordano comunque come anche il lavare, lo stirare, correre a prendere il treno e portare la figlia addirittura alle sue attività sportive è un gran modo per stare in forma. In effetti è vero, insomma, abbiamo tante attività che magari ogni giorno, certo. Alcuni amici ci suggeriscono anche la ciclette 5 mattine a settimana, ma soltanto un quarto d'ora, quindi in effetti abbiamo tantissime attività che si possono fare anche in casa. La ciclette, il problema poi è sempre dove metterla, perché abbiamo tutte case piccole e non si sa mai dove infilarla la ciclette. È vero, anche questo è un problema. Marco, prima di salutarci, 800 24 00 24, cari ascoltatori, tra poco vi sentiamo anche sulle vostre strategie per camminare e per smaltire gli eccessi, oltre che alle favole. Appunto, tu ce l'hai una favola particolare che ci vuoi segnalare, perché stamattina siamo partiti così con le favole. Allora, Pinocchio, a me piace tanto Pinocchio. Hai scelto la migliore di tutte, sì. È quella più conosciuta, la più famosa anche nel mondo sicuramente, la favola italiana. Ti piace da matti. Va bene, ma tu hai figli? Sì, da poco, 3 mesi e mezzo. Quindi non hai ancora cominciato a raccontare favole, gliela racconterai? Pinocchio? Gliela racconterò Pinocchio, ma me ne sto inventando anche qualcuna, perché è difficile in effetti pensarle. Però, dato che nella sua cameretta ho appeso tantissime casette di legno, diciamo piccoline, quelle che sono casette per gli uccellini, ho già pronta una favola che riguarda appunto ogni uccellino che vive in quelle casette. Quindi c'è l'uccellino che le permetterà di prendere il buon sonno, quello che le consiglia la colazione. Ti stai organizzando proprio in maniera strutturata. Ma come mai queste casette di uccellini, posso chiedertelo? No, perché abbiamo dipinto una parete come se fosse una sorta di foresta, ovviamente su un colore pastello molto carino, perché mia moglie è creativa, quindi disegna e fa. E quindi, che bella idea! Su questi rami di questa foresta abbiamo appeso poi delle reali casettine di legno per gli uccellini. Sono 6-7 casette e quindi su questa parete poi sarà l'immagine, insomma, spero tra qualche mese, la parete in cui appunto si racconterà qualche favola. Giusto, però più che uccellini che volano, oppure dovresti fare degli uccellini che non hanno le ali, che devono camminare di casetta in casetta, così fanno almeno 3,5 km. Mi aspettavo più una favola tipo Pollicino, che quindi deve camminare nel bosco, camminare tantissimo. Ma esistono gli uccellini grassi? No, non esistono gli uccellini grassi. Beh, io certi piccioni obesi a Milano li ho visti. Mangiano junk food. Grazie Marco Bianchi. Grazie, ciao. Marco. Ciao ragazzi. Allora, cari ascoltatori, vi aspettiamo all'800 24 00 24 anche con le vostre favole. L'idea è più bella, se poi volete raccontarvene una inventata da voi. Anche oggi mettiamo in palio 2 biglietti del catalogo della mostra di Barbie al MUDEC di Milano. questa è Si può fare, questa che abbiamo appena ascoltato è Adventure of a Lifetime dei Coldplay ed è il Si può fare in musica che ci è stato segnalato da Luca di Novi Ligure. Vi ricordiamo che noi stiamo sempre cercando di Si può fare in musica, quindi se siete dei musicisti o dei compositori, anche semplicemente degli ascoltatori che avete in mente una canzone che secondo voi ben spiega il concetto di Si può fare, beh, segnalatecela e noi la faremo ascoltare. Ce la potete segnalare sui nostri account di Facebook, Si può fare trattino Radio 24, oppure sul nostro account di Twitter che è @ Si può fare 24, oppure sui nostri account personali, il mio che è @ Carlo Gabardini e c'è anche il mio @ Ale Maurizi. C'è un ascoltatore che su WhatsApp, Enzo, ci scrive: buongiorno, solo per dire che ora lavoro in un ricovero per anziani e conta passi e GPS alla mano. Ogni giorno in turno cammino 25.000 passi, ovvero 18 chilometri. Un saluto dalla Baviera. Questo sarà informissima, smagliante. Beh, ma è sul grandissima invidia, si cammina molto. Ascoltatori, Paola da Roma, buongiorno. Buongiorno cari. Buongiorno. Allora, io sono una nonna che ha un nipotino di 4 anni. Età perfetta per le favole. Adesso ne ha 6. Quando aveva 4 anni ho inventato questa favola. Lui lasciava la mano dai genitori, si perdeva, trovava un altro amichetto suo dell'asilo, avevano tante avventure del tipo toglievano la spina dalla zampa di un leone, mangiavano una casetta di cioccolata, avevano tante vicissitudini e alla fine finivano dalla polizia e in questo modo il bambino ha imparato nome, cognome, indirizzo e cellulare della mamma. Per dirli veramente in caso di bisogno. Certo. È bellissimo. Quindi è proprio E lui all'asilo era l'unico che sapeva, memoria, il cellulare della mamma e l'indirizzo. Che super nonna, Paola, bella questa. Questo è un ottimo esempio, anche perché questo è il caso in cui una storia la puoi solamente inventare, perché se uno la scrivesse questa storia, immagino che molti genitori leggerebbero il numero di telefono di questa nostra. Esatto. No, ci ho infilato dentro tutte le altre storie. Aveva un titolo questa favola? Titolo? Sì, si chiamava Adriano e Jonathan. Ok, ma Adriano, chi dei due era il nipote? Sì, ma quando si mangiavano la cassetta di cioccolata, che la mangiavano tutta, avevano tanta cacca che affogavano un formicaio. Ah, vabbè, con particolari anche, ovviamente, che poi sono quelli che piacciono di più, soprattutto quando si parla di cacca, ai bambini, è evidente. Paola, grazie Paola. Mille. Complimenti ragazzi. Anche perché è riuscita in 25 secondi a raccontarcela tutta e in realtà anche a raccontarci il perché di una favola inventata, per infilarci dentro i dati sensibili che un bimbo deve sapere perché in caso di bisogno, in caso che si ritrovi senza la mamma o senza il papà. Le favole per strada sono così, si raccontano in 10 secondi, poi sono i particolari che le arricchiscono e possono durare anche per ore, se sei bravo. Finché non si addormenta durano di solito. Mi esercito abbastanza con Viola, poi mi eserciterò anche con Olga. Tiziana dalla provincia di Latina, buongiorno. Eccomi, ciao. Eccola. Buongiorno a voi. Ciao. Buongiorno. Grazie. Allora, io volevo raccontare che quando mia figlia aveva 4 anni io ho avuto il secondo bambino e come tanti, quasi tutti i bambini, soffriva di gelosia e puntualmente la mattina aveva qualcosa che non la voleva non andare a scuola, quindi inventava cose ogni giorno diverse. Allora io ho iniziato a raccontarle la sera prima, che sapevo già che la mattina dopo era un problema, favolette nelle quali stranamente c'era una bambina che si chiamava Costanza, che è il suo secondo nome, e che puntualmente arrivava a scuola in ritardo e che una volta salvava un uccellino che era rimasto incastrato in una grata, un'altra volta scopriva che il bidello si era dimenticato la porta della scuola aperta, quindi diventava ogni giorno di più la bambina di moda della scuola, tutti la acclamavano, per cui ogni giorno aveva voglia di andare a scuola un pochino prima. Così facendo, piano piano ha imparato a fare anche altre cose, tipo mangiare le verdure, c'era sempre un messaggio nascosto. All'inizio mi faceva pure un po' ridere, poverina, perché mi prendevo un po' gioco di lei. Adesso ha 18 anni ed è una ritardataria cronica adesso. No, veramente, parlando delle favole, ricorda subito le favole di Costanza, mi guarda con un occhietto un po' malinconico, un po' nostalgico, come se fosse una cosa tra noi due. È rimasta una cosa tra noi due, il modo di dirle fai questo, fai quello, però in maniera un po' più subdola, poverina. Però perché lei è stata molto brava, perché dalla favola uno potrebbe capire, va bene arrivare in ritardo perché io arrivando in ritardo riesco a salvare l'uccellino, a trovare la porta aperta. Infatti, È vero, infatti a un certo punto avevo il timore di voler continuare, però ogni tanto c'era, cioè alla fine della favola c'era sempre tutta la scuola che stava lì e che le diceva brava, vieni Costanza, era diventata l'amica di tutti. Allora lei in quello ha trovato la, diciamo, la sua morale, lo stimolo, e non nel ritardare, cioè nel diventare la bambina di moda, in quanto gelosa del fratello era un po' insicura in quel periodo, ecco, diciamo. Va bene Tiziana, certo, ottimo. Grazie mille, grazie anche a te. Bellissima grazie anche storia. A te, c'è anche questa, aggiungiamo alla lista, e stanno chiamando in molti, dimostrazione che insomma l'orgoglio italiano sulle favole sta venendo fuori, non certo. Solo in Inghilterra, perché siamo partiti da lì, da questa notizia del giornale American The American, The Atlantic, una rivista letteraria americana, che insomma tirava in ballo questo: solo l'Inghilterra è capace di inventare nuove favole. Partiva dalla saga di Harry Potter fino ad arrivare ad altre, e invece noi stamattina vi stiamo chiedendo quali sono le vostre favole preferite e soprattutto se le inventate e ne state inventando alla grande, se ce le raccontate, ma anche appunto se raccontate altre favole che magari sono un mischione di favole che già esistono, più fantasia italiana. C'è anche un ascoltatore su WhatsApp, Stefano da Roma, che scrive: ma non leggete mai WhatsApp, forse c'è un problema, non pretendo di interagire ma almeno di essere letto, datemi un segno se leggete. Stefano, ecco, il segno te l'ho dato, però vedo che tu nella chat continui a chiedere se non leggiamo WhatsApp noi di Radio 24, ma non scrivi mai qualcosa che vada letto. Cioè, noi leggiamo WhatsApp, se tu scrivi qualcosa da leggere noi lo leggiamo, ma se tu scrivi solo questo non è che possiamo leggere. E Alessio l'ha detto a WhatsApp, io purtroppo non ce l'ho davanti, mi piacerebbe moltissimo leggerlo, ma purtroppo non lo vedo. Dobbiamo inventare o uno specchio e tu esatto. Lo vedi, oppure una app che te lo consenta. Bravissimo. Di vedere. Forse un'app che si chiama WhatsApp. A tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Le casse spingono, i sassi rotolano, i buchi neri sono sempre dietro l'angolo. Il tuo sedere è un panorama splendido e quando passi canti guarda come dondolo. Faccio le rime anche se non ho fatto il classico, ho ancora dentro qualcosa di giurassico, come un istinto a sopravvivere a difendermi, come una musica punto ad espandermi. Partiamo, andiamo, è la chimica degli elementi, è la scienza bellezza, si procede per esperimenti. Questo è un grande giorno da vivere. Giorno da vivere, senza limiti, senza fiato, tutto giusto, tutto sbagliato, muovere. Prendiamo a prestito ancora questo Jovanotti dall'ultimo album La scienza bellezza. Jovanotti che tra l'altro da ieri a Milano, stasera ancora sarà a Milano, biglietti naturalmente esauriti. Solo se avete un colpo di fortuna come ha avuto la nostra Claudia Schiattone, che voleva tantissimo andare al concerto di Jovanotti, l'ha chiamata un amico che non poteva andare, poverino lui, perché aveva la bronchite, è andata lei. Esatto, possiamo finalmente dire, visto che ormai Claudia è andata sì. Al concerto, possiamo finalmente dire che è stata Claudia a fare dei malocchi pazzeschi, per cui questo ragazzo ovviamente non se l'è sentita di andare al concerto, ormai è andata così. E la notizia è questa, se i vecchi smartphone diventano rifiuti preziosi, il progetto dell'Università di Cagliari che aiuta a recuperarli. Noi salutiamo Angela Serpe, buongiorno Angela. Buongiorno. Buongiorno. Che è ricercatrice del Dipartimento di Chimica e Geologia dell'Università di Cagliari, coordinatrice di questo progetto che si chiama Recovery Green Metal, ho detto bene? Sì, grazie. Sì, no, grazie. Perché ho pronunciato in inglese, diciamo, ho fatto uno sforzo perché tutto questo inglese che ci assale, devo dire, ogni tanto a me mi sconcerta personalmente. Carlo invece è tranquillo. No, io sono già. Ignorante, ci mancherebbe assolutamente. Però penso che alcune parole ormai sì sono inglesi. Poi questo sarà un così, progetto sicuramente di università e quindi giusto usare l'inglese che è la lingua un po' della scienza. Angela. Diciamo che il nome ha tre elementi particolari sì. Che erano nati come diciamo simboli da twittare su Twitter. Sono tre elementi essenziali del progetto: uno è il recupero, Yes. Uno è l'aspetto verde, quindi sostenibile del progetto, e l'altro è il recupero dei metalli, quindi certo. Erano i tre punti fondamentali che in maniera sintetica venivano così, diciamo, presentati al pubblico. I tre hashtag. Perché insomma noi ormai lo sappiamo che dentro per esempio i cellulari, ma così come anche in altre attrezzature elettroniche, c'è dentro una piccola miniera d'oro ogni volta. Oro anche proprio in senso stretto, perché c'è anche proprio l'oro nei cellulari, no? Sì, ci sono molti metalli, tutti chiaramente di prima qualità, visto anche le funzioni che devono avere, e tra questi è presente anche l'oro, in quanto è il metallo che più difficilmente si ossida ed è un ottimo conduttore, quindi viene utilizzato come metallizzazione esterna nei contatti, è quello che noi in genere vediamo come dorato nei nostri dispositivi. È quello che potrebbe anche giustificare in alcuni casi dei prezzi elevati dei cellulari, no, anche se la quantità in realtà è piuttosto bassa, però metti insieme tanti cellulari e quindi la quantità diventa interessante. Però tranquillizziamo, avvertiamo tutti che perché ci sono i figli che stanno rubando i cellulari dei propri genitori per cercare di estrarre l'oro, ce n'è pochissimo dentro nei telefonini, anche perché poi è tutto che va recuperato assolutamente, e adesso ci spiegheranno anche come. Esatto, come fate? Allora, noi è da tanto tempo che studiamo questi, diciamo, sistemi di natura chimica, quindi metodi di recupero per via chimica, che vanno a sciogliere i metalli in maniera selettiva, e sciolgono via via i metalli che sono sempre più difficili da sciogliere, quindi partono prima dai metalli più facili da ossidare, quindi metalli di base, il ferro, lo zinco, questi metalli qua, poi recuperano selettivamente il rame e l'argento e poi l'oro alla fine del processo. La peculiarità dei nostri sistemi è che si cerca un approccio selettivo con reagenti ecosostenibili e reagenti riciclabili, quindi cerchiamo di non produrre ulteriore rifiuto, ulteriore danno all'ambiente, e anche cerchiamo di ottimizzare dal punto di vista economico il processo, perché è chiaro che se possiamo recuperare i reagenti utilizzati anche i costi di trattamento si riducono. Mm-hmm. E venendo invece proprio alle quantità, no? Sì. Che quantità d'oro per esempio c'è all'interno di un cellulare? Cioè, non so, quanti cellulari ci vogliono per fare un grammo d'oro? Allora, diciamo che noi più che andare sul singolo pezzo andiamo su le tipologie, per esempio le schede elettroniche possono contenere quantità variabili di metalli preziosi, noi abbiamo tante tipologie di schede elettroniche e per esempio le schede possono andare da un minimo di 50 a un diciamo, massimo di 500 grammi per tonnellata di oro, sì. Poi per esempio le schede degli smartphone sono particolarmente ricche perché sono tra quelle dove l'oro è presente in maggiori quantità, e in quelle schede è presente anche il palladio ad esempio in quantità paragonabili, quindi anche il palladio è un metallo prezioso di valore, mm-hmm. quindi che vale la pena essere recuperato. Il nostro approccio tra l'altro ha anche questo di diverso da quello che si fa normalmente, cioè noi andiamo a lavorare sui rifiuti triturati e andiamo a riciclare il più possibile dei metalli presenti, cercando proprio di evitare di mandare a smaltimento materiali che sono comunque di interesse, perché ormai i metalli si stanno esaurendo, tutti i metalli, diciamo sono tutti in via di esaurimento. A forza di utilizzare, di scavare miniere, certamente. Poi è assurdo buttare via, lei ha detto, in una tonnellata di cellulari che possono sembrano tanti, può sembrare tanto, però poi se pensiamo su vasta scala non credo sia tanto una tonnellata di cellulari, ci sono fino a 500 grammi d'oro, quindi buttarli via, bruciarli, buttarli in un inceneratore, capite che è una follia assoluta. Questa vostra invenzione dove può arrivare? A una commercializzazione? A un utilizzo di che tipo? Allora, i metodi sono stati testati su scala di laboratorio già ampiamente e sono assolutamente soddisfacenti dal punto di vista sia delle rese che dell'efficienza. Adesso le aziende che sono interessate a realizzare impianti produttivi hanno necessità chiaramente di risposte un po' più precise riguardo la progettazione di un impianto industriale. Per fare questo abbiamo necessità di realizzare un impianto pilota che validi, diciamo, il metodo su una scala maggiore, quindi dia tutte le risposte anche di consumi e di tecnologia per realizzare un impianto poi industriale. Quindi stiamo cercando di fare questo attraverso il crowdfunding di Telecom Italia. Sì. Il progetto è stato selezionato appunto nella campagna di crowdfunding WeTWeDo di Telecom Italia e sta cercando di raccogliere 90.000 euro per la realizzazione di un impianto pilota sostenuto, diciamo, dalle aziende anche che sono interessate poi alla fase produttiva. Quindi state cercando, insomma, risorse. Ci vuol dire il link o il nome del progetto se qualcuno volesse appoggiarlo, sostenerlo anche economicamente? Certo, il sito è www.telecomitalia.com, che è una piattaforma di crowdfunding. Benissimo. E il progetto? Esatto, il progetto vostro? È Recovery Green Metal. Ok. Lo si trova appunto sulla piattaforma di Telecom. Una domanda, una curiosità: i cellulari dove li trovate, cioè dove li reperite? Andate in discarica, chiedete un favore agli omini dei rifiuti, oppure avete qualche accordo con... No, allora diciamo che il progetto intanto è esteso a più tipologie di RAE, non soltanto i telefonini, quindi sì. Ripeto, a varie tipologie che possono essere raccolte in diversa maniera. Comunque abbiamo delle aziende coinvolte come co-founder che hanno il materiale a loro disposizione in quanto sono dei raccoglitori. In più, chi fa le donazioni anche attraverso il sito può ricevere la Green Box, che è una scatola di cartone pre-indirizzata e preaffrancata, nella quale chi desidera può inserire delle piccole apparecchiature elettroniche e inviarle per la sperimentazione. Inviarle a voi, perché attualmente i nostri cellulari, io dico i cellulari ma vale anche per altre apparecchiature, le portiamo, se va bene, in discarica, se va bene, e che poi che vengono inseriti in un processo di recupero o vengono buttati via così? Allora, la normativa europea è molto precisa a questo riguardo, impone ai comuni di fare una raccolta differenziata dei RAE, cioè dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, che devono essere raccolti e poi trattati in maniera specifica. Ora, non tutti i comuni sono ancora attrezzati, però diciamo la linea dovrebbe essere questa. Cioè, che la teoria è quella, raccolta, la pratica. Sì. Poi, come la sempre. Pratica, diciamo, in molte parti d'Italia si fa questo tipo di raccolta. Inoltre la normativa prevede anche che si possa portare le proprie apparecchiature dismesse ai rivenditori che sono, diciamo, tenuti a ritirare il bene. Fino a poco tempo fa c'era l'uno contro uno, cioè posso portare per esempio un vecchio PC a fronte dell'acquisto di uno nuovo. Sì. Adesso c'è l'uno contro zero, cioè si può portare anche senza acquistare altri materiali. E questo è bene ricordarlo a tutti, che non vanno buttati nella spazzatura ma vanno riportati a un rivenditore, il quale è tenuto a ritirare il nostro rifiuto, giusto? Sì. Io però, se fossi un comune, farei così: prenderei tutti i cellulari utilizzati, vecchi, che ho in discarica, li porterei da voi lì a Cagliari, invece di avere un costo per lo smaltimento, porterei a casa loro. Esatto, investirei nella vostra startup e poi magari, chissà, potrei anche guadagnare qualcosa dalla vendita di queste materie prime. Io farei così, poi non lo so. Grazie. Grazie Angela mille. Serpe, grazie mille. Di Cagliari. Grazie a voi. Buona complimenti, giornata. In bocca al lupo. Complimenti, grazie. Giustamente, prima tu dicevi una tonnellata, possiamo tanto, però ricordiamo a tutti che nel 2014 ogni italiano ha prodotto 17,6 kg di rifiuti RAE, che sono i rifiuti di cui stavamo parlando, ovvero i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Quindi tantissima roba. Nel secondo dice: ma no, ma io che cosa avevo prodotto? Il telefonino non l'ho cambiato, quello non l'ho cambiato. Invece, comunque, facendo la media, sono 17,6 kg a testa. Ascoltatori, 800 24 00 24, vi aspettiamo ancora nell'ultima parte del programma, sempre con i vostri racconti, le vostre favole. Abbiamo già raccolte alcune, poi alla fine diremo chi ci ha convinto di più con quasi tutte favole inventate alla fine. Molto belle, molta infatti. Fantasia, bello. Traffico. Si può fare, si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, buongiorno cari ascoltatori, abbiamo Gemma che ci chiama dalla provincia di Salerno. Sì, eccomi. Buongiorno. Volevo intervenire con una favoletta che ho inventato per i miei nipotini. Ma noi siamo tutti orecchi, ce la racconti? Dunque, per abituarli all'idea della diversità, io ho ambientato la favoletta in una scuola di vini frequentata da tanti vinelli bianchi e frizzanti. Una scuola di vini? Vini. Bellissimo, vini. Sì. Questi tornano un giorno a casa e lamentano con i genitori la presenza di un compagno scuro, tanto diverso da loro, che loro non amano, non accettano, certo. fin quando non vengono rapiti dall'orco, che chiude tutti i vini nel sacco e li porta nella sua caverna. I genitori disperati cercano di rintracciarli, ma non c'è traccia, fin quando uno di loro si accorge che lungo il percorso c'è una scia scura, perché il vino nero ha sacrificato se stesso, ha fatto saltare il tappo e si è lasciato sgocciolare lungo la strada in modo da indicare ai genitori la via per la caverna. Questi arrivano e liberano i vinelli bianchi che si sono salvati grazie al sacrificio del loro compagno. Ma è una storia stupenda. I vinelli bianchi frizzanti, ci aggiungerai anche i rosé, che vengono salvati perché il vino nero, il vino scuro, si sacrifica per tutti gli altri. Signora, è una storia bellissima, veramente. La inseriamo nella lista. È in altissima classifica. Grazie a lei, buon sabato. Arrivederci. Va bene, tra poco il cervellone della redazione di Si può fare farà brrr, ed estrarrà il nome del vincitore di oggi. Credo sia l'ultima telefonata degli ascoltatori, o quasi. Vai. Potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. No, tu no. Per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone. E vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. E vengo anch'io. No, tu no. Perché? Ma in Italia ci sono ancora gli zoo? Ci sono ancora gli zoo? A Milano l'hanno chiuso. Io quando ero piccolo me lo ricordo, c'era lo zoo. Certo. Era i giardini pubblici dove chiudono. C'è ancora la gabbia del leone a Milano. Bravo, chiudono quasi tutte le gabbie e rimangono in alcuni casi dei parchi con delle recinzioni dove ci stanno anche degli animali. Ma insomma, i vecchi zoo con le piccole gabbie stanno chiudendo quasi tutti, perché insomma gli animali erano un po' troppo a Milano sicuramente sembravano molto costretti. Poi non lo so, adesso chiamerà qualcuno dicendo che stavano benissimo, però mi sembravano molto costretti. Infatti c'è la gabbia del leone, ma non c'è dentro il leone. Questa invece è la storia tutta particolare di uno zoo molto particolare. Siamo a Cavriglia, in provincia di Arezzo, in uno dei classici comuni rossi della sì. Toscana, dove uno dei più rossi dove anche lo zoo era comunista. Buongiorno al sindaco di Cavriglia, Leonardo degli Innocenti Osanni. Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, ho detto era, lo zoo era comunista, perché non solo non ci sono più i comunisti, ma fra un po' non ci sarà più nemmeno lo zoo. Ma non è che non è più comunista, non è che diventa uno zoo fascista, giusto? Assolutamente no. Dunque, allora, il nostro innanzitutto non è mai stato proprio uno zoo, in realtà era un magnifico parco. Sì. Cavriglia si trova a questa caratteristica di trovarsi a 40 chilometri esatti di distanza tra tre città d'arte magnifiche. Momento prolofo Siena, del sindaco. Arezzo e Firenze. Sì. E il nostro parco appunto è collocato nel crinale che divide il Chianti dalla Valle dell'Arno. Il crinale, come parla bene sindaco, bellissima esatto. Parola, il crinale. Il crinale. Però aveva la parte. Sì, sì. È un parco che è nato nei primi anni 70, sì. Ed è stato popolato da molti animali esotici provenienti dall'URSS, appunto. Ecco. Sì, perché questo dall'ex parco, Unione Sovietica, diciamolo, era intitolato ad un partigiano sovietico morto nella resistenza, Nikolai Bujanov. Uh-huh. Esatto, sì, è un parco che è stato dedicato a questo partigiano, che poi in realtà era un deportato verso la, verso la Germania, sì, per i campi di concentramento, che riuscì a fuggire dalla stazione di San Giovanni Valdarno e si unì alle brigate partigiane che operavano appunto nel, nei monti del Chianti, che sono proprio sopra Cavriglia, dove poi è sorto questo parco. Lui compì un gesto eroico salvando la popolazione che si stava rifugiando nei boschi, e con un mitragliatore respinse le truppe nazifasciste che peraltro in quel periodo a Cavriglia il 4 luglio del 1944 trucidarono 193 vittime, tutti maschi adulti. Quindi siamo anche un luogo delle stragi nazifasciste. Mm. E quindi insomma una storia che intreccia, e tra l'altro non sapevo che in Italia ci fossero stati durante la Seconda Guerra Mondiale anche persone dell'esercito sovietico, pensavo che non fossero arrivati fino in Italia, che fossero rimasti più a nord, e invece piccola lezione di storia, c'erano anche i soldati sovietici in Italia, io non lo sapevo. No, dunque lui era uno catturato, sì, catturato in Russia, veniva deportato in Germania e riuscì a scappare e venne in Italia, riuscì a fuggire, si unì alle brigate appunto partigiane, sì, che erano molto attive in questi territori, sì. Da allora nacque questa storia particolare per cui a un certo momento avete voluto dedicare chi era il sindaco, un suo predecessore, qualche negli anni 70. Negli anni 70, sì, un po' di sindaci fa, diciamo. Quei sindaci che venivano eletti, sindaci del PCI che venivano eletti con che percentuali bulgare? Beh, Cavriglia in quegli anni il PCI era molto, era intorno al 70%, ecco, quindi percentuali importanti che poi però i sindaci anche successivamente hanno conseguito, addirittura c'è stato un record nazionale con l'82% qui a Cavriglia, e sì, quindi insomma è una tradizione ben radicata, ben conservata, ben radicata. Anche esatto. Lei è stato eletto, lei del PD? Del PD, sì. E con che percentuale è stato votato? 73%. Quindi siete fedeli, diciamo, alla linea da questo punto di vista. Fedelissimi. Anche se la linea nel frattempo è cambiata, non è più quella sovietica, ma è quella di Renzi. Assolutamente. Questo parco è intitolato a questo Bujanov, e in riconoscenza l'Unione Sovietica vi ha regalato molti animali, anche un orso. Sì, ci ha regalato tanti animali, e per la verità gli amministratori da allora, con passione, cuore e soprattutto anche con tanto volontariato, perché questo parco nacque anche grazie al contributo di tanti cittadini cavrigliesi che il sabato, la domenica, dedicavano il proprio tempo libero per la realizzazione di questo luogo che è straordinario. E gli amministratori comunali di allora fecero proprio direttamente dei viaggi nell'ex Unione Sovietica e portarono degli animali, delle specie di cavalli, delle specie particolari appunto di cavalli, delle antilopi, e poi il famoso orso Bruno, ancora vive, che è figlio dei primi due orsi che arrivarono dall'Unione Sovietica, che oggi, pensate, ha oltre 38 anni. Che sono tanti, per un orso. Che è quasi un record, perché sì, se lo equipariamo all'età di una persona, sono oltre 100 anni. Ma non è un po' fuori zona Arezzo per l'orso siberiano? Come, scusi? Non è un po' fuori area Arezzo per un orso siberiano? È un po' fuori zona, però evidentemente l'attenzione e la cura che le amministrazioni precedenti alla mia hanno avuto verso questi animali li hanno fatto stare in qualche modo. Beh, si è trovato bene, se no non viveva fino a 100 anni. E adesso invece, cosa? È una considerazione che fanno tutti, ecco, che si è trovato bene, se no non avrebbe vissuto così a lungo. Certo, e adesso invece che cosa succede? Cioè, lo chiudete, però da quello che ho capito l'orso Bruno dovrà rimanere perché è troppo anziano per essere spostato, giusto? Esatto, adesso noi abbiamo fatto una cosa abbastanza innovativa da queste parti. Abbiamo messo al tavolo le associazioni animaliste, le abbiamo invitate ad un tavolo, quindi le istituzioni stanno dialogando con le associazioni animaliste. Che sono quelle più contrarie, suppongo, a mantenere aperto questo parco zoologico. Sì, ma non solo, diciamo anche nella nostra comunità, anche da parte di chi non è associato a queste associazioni, è cresciuta la sensibilità e quindi siamo stati invitati anche dalla nostra gente, dalla nostra comunità, a prendere in seria considerazione questo progetto. È un progetto che nasce appunto dal Comune di Cavriglia, quindi dalle istituzioni, con l'associazione LEAL, ed è un progetto che prevede lo spostamento verso santuari di tutti gli animali esotici, e quindi li vogliamo ancora... Santuari? In che senso santuari? Quindi dei luoghi protetti dove gli animali possono vivere ordine semilibertà. Ah, va bene, certo. Alcuni li abbiamo già spostati all'Ipposi di Livorno, ed altri, come una colonia di macachi giapponesi di 17 elementi che è presente all'interno del parco, stiamo lavorando per spostarli in un santuario in Belgio. Certo. E quindi stiamo cercando, ripeto, nonostante che gli animali siano stati bene, a provare a farli stare ancora, se questo è possibile, meglio. E insieme all'associazione abbiamo fatto questo progetto e lo stiamo appunto mettendo in atto. Per Bruno il ragionamento è un po' particolare, perché appunto, essendo così vecchio, non ci vuole la casa di riposo. Esatto, non è consigliato lo spostamento. Poi lui è stato per molti anni in una gabbia di cemento, poi circa 10 anni fa questa gabbia fu in parte smantellata ed è stato incluso nel suo spazio una parte di bosco. Dobbiamo chiudere, sindaco, però dobbiamo chiudere, grazie. Grazie mille, ci saluti l'orso Bruno. Raccontato la storia del parco zoologico di Cavriglia. Allora, siamo appunto in chiusura. Sì, dobbiamo dare il premio. Il nome del vincitore. Allora, Paola, che ha raccontato la favola di Adriano e Jonathan, col quale aveva insegnato al, non ricordo se era nipote o figlio, nome e cognome, no, era il nipote, nome, cognome, numero cellulare della mamma, qualora si perdesse con uno stratagemma. Grande inventiva e fantasia di questa nonna. Ottimo. Ci sentiamo domani 8:30-10 con Si può fare. Grazie a Claudia Schiattone, Andrea Piano, tornando insieme nel programma, Peter Bescapa in regia. Ci sentiamo domani. Ciao da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Ciao.